Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Renzi, il giorno della fiducia alla Camera dopo l'ok del Senato. Fassina, giudicherò volta per volta il piano sulle tasse sul lavoro. Un taglio tra 8 e 10 miliardi entro 12 mesi, dice il responsabile economico del PD intervenuto a Radio 24. Intanto sono ancora molto pesanti i dati sul commercio al dettaglio. In dicembre il calo delle vendite è stato del 2,6%. Aumentano del 15% le denunce per casi di usura, riferisce Confesercenti. In difficoltà economica, preoccupato per i lavori davanti al suo bar che avrebbero tolto visibilità ai clienti, si dà fuoco un uomo a Monza. Tra poco intervisteremo il sindaco. L'ex capo della squadra mobile di Vivo Valencia e il suo vice arrestati su ordine della procura di Catanzaro. L'accusa: davano informazioni sulle indagini alle cosche. Per un'agitazione sindacale rischia di saltare la prima della Manon Lescaut di Puccini, diretta dal maestro Muti all'Opera di Roma. Il comune starebbe minacciando la liquidazione del teatro. Il maestro Manzi straccia i talk show politici nel giorno della fiducia al Premier. La fiction di Rai 1 vince nettamente la gara degli ascolti con quasi 6 milioni di telespettatori. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, alle notizie in 60 minuti. Come sempre, se volete le potete commentare al 349-238-6666 via sms o sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Quindi questi i temi principali, li avete sentiti nei nostri titoli. Tra gli altri sentiremo oggi anche il senatore di Scelta Civica Pietro Ichino, che ieri è stato anche piuttosto critico con Matteo Renzi. Iniziamo però dalla cronaca parlamentare di queste ore e lo facciamo col nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. 51 gli iscritti a parlare per una discussione generale che andrà avanti almeno per un'altra ora. Alle 16 interverrà il Presidente del Consiglio, poi spazio alle dichiarazioni di voto, quindi intorno alle 18.30 la cosiddetta prima chiama per la fiducia. Un esame decisamente più semplice, quello di Montecitorio rispetto al Senato, visti i rapporti di forza sui quali può contare il Partito Democratico. Tra gli interventi da segnalare pochi minuti fa quello di Civati: Matteo, stai sbagliando, ma voto la fiducia, ha detto l'esponente del PD, che ha ricordato quindi al Premier come a Palazzo Madama, se non ci fossero stati i voti dei cosiddetti civatiani, la fiducia sarebbe stata in mano ai senatori a vita. Fortemente critiche con Renzi le opposizioni, molta ironia dal Movimento 5 Stelle. Sentiamo allora lo scambio di battute tra Sibilia del 5 Stelle e la Presidente della Camera Boldrini. Fondo di garanzia per le PMI. Fondo di garanzia per le PMI. Ah, ma te sveglia, il fondo ci sta già. Senta, si può esprimere in modo rispettoso, per favore. Usi un tono più consono quando si esprime e si rivolge al Presidente del Consiglio. La prego, onorevole Sibilia, la prego. Mi vuole ghigliottinare come il 29 gennaio 2014? No, questa ironia non ci serve. È totalmente gratuito questo tono. Continui col suo intervento. Un voto di fiducia, Simone, scontato nei numeri allora qui alla Camera, e quindi il Premier guarda avanti alle prossime tappe, agli impegni presi con il suo discorso programmatico, il tutto accompagnato da un Twitter di buon mattino: ottenuta la fiducia, scrive Renzi, poi si inizia a lavorare sul serio, domani scuole, lavoratori, imprenditori, sindaci a Treviso. E da Montecitorio è tutto, linea allo studio. E grazie al nostro Vincenzo Miglietta. Dal lato del programma c'è stata la promessa di un taglio consistente del cuneo fiscale, ossia molto semplicemente delle tasse sul lavoro. Di questo ha parlato stamattina anche il responsabile economico del Partito Democratico, Filippo Taddei, intervistato da Alessandro Milan in 24 Mattino. Ascoltiamolo. Secondo noi, nell'arco di 12 mesi, 8 miliardi sono ampiamente alla portata, 10 miliardi ci si può arrivare con un po' di sforzo, ma sono numeri ragionevoli. Si va molto lontano, sinceramente, dall'essere un libro dei sogni e dall'essere molto lontano anche dalle mirabolanti cifre che sono uscite. Io vorrei a questo punto rassicurare tutti che noi ci siamo impegnati a fare una cosa molto precisa, che è una riduzione drastica della tassazione sul lavoro, e responsabilmente, visto che l'abbiamo detto, lo portiamo fino in fondo con le scelte che ne conseguono. Voi parlate di una riduzione del 10% dell'IRAP, che costa, e su questo vorrei essere molto preciso, diciamo a gettito stimato per il 2013 2 miliardi e 3, le rimangono diciamo altri 5 miliardi, vogliamo star bassi, di riduzione del carico fiscale. Dove lo orienti? Ecco, per noi la priorità è orientarlo sull'IRPEF, a partire da dai, lavoratori. Sottolineo lavoratori, non ho detto dipendenti, non ho detto autonomi, ho detto lavoratori, ok? Ora, prendiamo il lavoratore medio di questo paese, che sfortunatamente non è quello che ha indicato lei, non è uno che guadagna 1.500 euro, certo. Ma stiamo al suo esempio. A questo signore qua o questa signora qua che guadagna 30.000 euro lordi, che fa 1.600 netti, più o meno 1.700 su 12 mensilità, noi con la nostra riforma fiscale siamo in grado di offrire qualcosa tra i 500 e i 600 euro all'anno, diciamo 50 euro in più al mese. Gli cambia la vita? No. È un segnale concreto? Sì. Così dunque Filippo Taddei, sulla giornata di ieri, sul discorso di Matteo Renzi, su queste linee programmatiche espresse, sentiamo l'editoriale del nostro direttore Roberto Napoletano. A noi interessa quello che il governo di Matteo Renzi saprà fare, null'altro, e lo verificheremo scelta dopo scelta. Il punto di riferimento nel merito è il decalogo del Sole 24 Ore. Dal discorso programmatico fortemente rituale di Renzi non mancano indicazioni che vanno nella stessa direzione, soprattutto su fisco e giustizia amministrativa. Sulle riforme istituzionali ed economiche è in gioco il futuro di un paese che soffre da troppo tempo per consentirci di liquidare sbrigativamente slancio e passione. Una cosa però deve essere chiara, di sicuro Renzi non potrà fare tutto, perché il taglio a due cifre del cuneo fiscale necessario e oneroso non si concilia ad esempio con la tentazione ricorrente di un assegno universale altrettanto oneroso. Esiste un problema oggettivo di copertura ed è su questo punto e tanti altri analoghi che si misura il senso di responsabilità di un governo. All'Italia servono scelte meditate e un metodo nuovo nella fase attuativa. Ciò che più ci ha colpito è una sensazione di sottofondo. Ci è sembrato di ascoltare il discorso irrituale di un Presidente del Consiglio chiamato a guidare l'esecutivo di uno Stato che non sa dove mettere i soldi, mentre lo Stato della Repubblica Italiana sa bene di quanto ha bisogno ogni mese per pagare i suoi debiti. Anche Renzi non potrà non tenerne conto. E oggi sul Sole 24 Ore c'è Rating 24, che è lo strumento con il quale il nostro giornale analizza tra l'altro la fattibilità delle proposte politiche e la convergenza con il decalogo del Sole 24 Ore citato poco fa dal direttore. Tutti i dettagli con un giudizio sull'efficacia e sulla fattibilità delle varie misure. C'è anche lo speciale bot per capire come funziona, tra l'altro dopo tutte le polemiche di queste ore, come funziona adesso la tassazione sui risparmi e investimenti e su come potrebbe cambiare. Il Movimento 5 Stelle intanto si prepara all'assemblea di questa sera sui senatori cosiddetti dissidenti. Il clima è quello da resa dei conti. Stasera sarà l'assemblea dei senatori e dei deputati 5 Stelle a decidere il destino dei quattro dissidenti. Lorenzo Battista, Francesco Campanella, Fabrizio Bocchino e Luis Orellana rischiano l'espulsione dopo la scomunica partita da Palermo e ripresa dal blog di Beppe Grillo. La loro colpa è quella di aver criticato i toni usati dall'ex comico durante le consultazioni con Renzi. I quattro probabilmente stasera non parteciperanno all'assemblea e chiedono invece di essere sottoposti immediatamente al voto degli attivisti in rete, come spiega uno di loro, Campanella, ospite oggi di Mattino 24. Non ci vado, anche perché insieme ai colleghi abbiamo concordato di chiedere di passare direttamente alla valutazione della rete, se riteniamo che a questo punto si ponga un problema, cioè se è l'unica cosa, che a quanto pare l'unica cosa che ci ha scritta, è manifestare la nostra opinione alla stampa. Vogliamo sapere se gli iscritti preferiscono un movimento chiuso in cui uno solo parli, cioè con una sorta di neocentralismo democratico, oppure se preferiscono un movimento aperto in cui si conoscono tutte le posizioni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E veniamo all'analisi della situazione politica. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno. Allora, i senatori ieri mi sono sembrati discretamente scossi, per così dire, no? Per usare le parole della Finocchiaro, quasi sorpresi dai toni utilizzati da Renzi. Sì, beh, certo, d'altra parte lui ha annunciato la loro abolizione, quindi per certi aspetti si può capire, ma insomma, oggi il voto, ancora di più il voto sarà scontato alla Camera e poi si comincia questa navigazione e con tutte le speranze e anche però le incertezze e le contraddizioni di questo quadro. Lui sa suscitare questa grande attesa, sa suscitare questo sogno, chiede agli italiani di credere nel suo sogno Però poi, appunto, poi c'è la concretezza delle misure che lui propone, c'è la possibilità di realizzarle veramente, di non lasciarle appunto nel libro dei sogni. Su questo c'è ancora tanto da capire, c'è tantissimo da capire. Il problema è vedere se questo paese, che è già prostrato, avrà il tempo di decifrare l'uomo nuovo, il personaggio nuovo, e se questo personaggio nuovo decide di governare realmente il paese con tutta la fatica che questo comporta, oppure si limiterà semplicemente a navigare sui problemi e a fare una sorta di campagna elettorale permanente. Se fosse questo, ci sarebbe da essere preoccupati, ma vogliamo essere un po' ottimisti. Grazie Stefano Folli e buona giornata. E noi veniamo ai dati dell'economia reale, al mondo reale se vogliamo. I dati dell'Istat di oggi che ci consegnano una situazione ancora difficile dal lato del mercato interno. Il boomerang di anni di crisi arriva soprattutto sulle vendite al dettaglio. A dicembre del 2013, nonostante le feste natalizie e voci di piccola ripresa, sono tornate a scendere, calando dello 0,3% rispetto a novembre e del 2,6% su base annua. E l'alimentare a livello mensile, con un calo dello 0,5%, fa anche peggio del resto dei prodotti. Nessuna novità nel quadro di un 2013 in cui c'è stato un crollo del 2,1% rispetto al 2012, il peggiore dal 1990. Un 2013 in cui gli alimentari sono caduti dell'1,1%, il maggiore calo in 4 anni. Ma a fare eccezione in questa epoca di siccità sono i discount alimentari, che nel 2013 sono aumentati dell'1,6%, mentre nell'intero settore c'è stata una flessione della grande distribuzione. Gli ipermercati hanno perso l'1,9%, i supermercati l'1,3%. E anche questa volta sono i piccoli negozi e le botteghe gli esercizi più colpiti, con un calo delle vendite di quasi 3 punti percentuali. Va ancora peggio per le vendite del resto dei prodotti, che perdono il 2,7%, come nel 2012 si penalizza il non alimentare. Perdono sempre più abbigliamento, calzature, elettrodomestici, radio TV e mobili, persino i farmaci. Ma si cerca di salvare almeno il cibo e le bevande scontate. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche di questo parleremo tra poco con il vicepresidente di Confesercenti. Ci vogliamo spostare adesso in Ucraina, dove è stata rinviata la formazione del nuovo governo, ma in questo momento l'attenzione è concentrata sulla tensione che c'è tra la Russia e l'Unione Europea dopo la conclusione di tutta questa vicenda. Antonella Scotta del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno, sì, prima di parlare più concretamente di aiuti, Russia e Occidente attendono di capire chi risponde in qualche modo dall'altra parte del telefono, chi sta prendendo in mano l'Ucraina in attesa delle elezioni presidenziali del 25 maggio, alle quali intanto per primo si è candidato l'ex pugile Vitali Klitschko, uno dei leader dell'opposizione. Il presidente ad interim Turchino fa rinviato appunto a giovedì l'annuncio della formazione di un governo di unità nazionale, ma il tempo stringe perché su due fronti il paese rischia di scivolare di mano. La prima emergenza è il separatismo. Le regioni dell'est del paese, in particolare la penisola di Crimea a sud, non riconoscono legittimità ai nuovi leader che stanno assumendo il potere a Kiev. Le consultazioni per arrivare a un governo sono complesse perché sono molto diverse le anime della protesta dei mesi scorsi, che ora vogliono avere una voce. La seconda emergenza è economica, le casse dello Stato sono vuote, servono 4 miliardi entro la fine del mese, quindi 4 giorni, per pagare stipendi, salari e le forniture di gas russo, e queste ultime, dunque il legame con Mosca, sono la terza emergenza. Il ministro degli esteri Lavrov ha ribadito oggi che la Russia non intende intervenire in Ucraina, ma che altrettanto devono fare le potenze occidentali. Intanto il Parlamento di Kiev ha votato perché Viktor Yanukovych, che di cui non si sa ancora dove si nasconda, venga processato dalla Corte Penale Internazionale. Grazie ad Antonella Scott per questi aggiornamenti e per la sua consueta disponibilità. Un altro paese dove si registrano tensioni, ma da tutt'altra parte del mondo, è il Venezuela. Anche questa notte è stata segnata in tutto il Venezuela da violenze e saccheggi, ma ogni giorno ha la sua foto simbolo in questo paese in rivolta. Sabato scorso è stata quella dell'oppositore Leopoldo López, arrestato in piazza con un mazzo di fiori bianchi in mano. Poi è stata la volta di Miss Turismo, la 22enne Genesis Carmona, morta tra le braccia di un manifestante. Ieri Angel Vivas, ex generale in pensione, che si è fatto trovare all'arrivo dei soldati che volevano arrestarlo sul balcone di casa, armato con un mitra e un giubbotto antiproiettile. Ustedes con su transmisión en el mundo, medios de comunicación internacionales, han llenado de odio, de desesperación, de miedo. Mentre il presidente Nicolás Maduro accusa la stampa internazionale e fantomatiche elite politiche e finanziarie degli Stati Uniti, l'ultima vittima confermata è Jimmy Vargas, un uomo di 34 anni caduto dal tetto di un palazzo di San Cristobal dopo essere stato raggiunto al viso da proiettili di gomma sparati dagli agenti mentre la Guardia Nazionale reprimeva una manifestazione. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo è il quadro dal Venezuela, mentre invece in Uganda è successo che ieri, come saprete, è stato firmato dal presidente la legge anti-omosessuali. Ebbene, oggi un giornale dell'Uganda ha pubblicato una lista dei 200 così definiti top gay del paese, con nomi e cognomi. Questo è quello che riferisce il Guardian. Il titolo è Scoperti. Oggi lo stesso presidente ha definito disgustosi gli omosessuali. Vi aggiorno. Torneremo anche su questo naturalmente. Intanto andiamo a un'inchiesta della procura di Catanzaro che riguarda l'andrangheta e arresti di ex poliziotti. Arrestati il capo e il vice capo della squadra mobile di Vibo Valencia in servizio tra il 2009 e il 2011, Maurizio Lento ed Emanuele Rodonò, sono accusati di concorso esterno in associazione mafiosa. Ultimamente lavoravano a Messina e Roma. Avrebbero agevolato la cosca de Mancuso evitando di svolgere indagini a loro carico, ma non solo. Secondo quanto risulta da un'inchiesta avviata dalla procura di Catanzaro, i due dirigenti avrebbero al contrario speso i loro sforzi investigativi nei confronti dei clan avversari ai Mancuso, in particolare alla famiglia Piscopani, che insidiava il loro strapotere sul territorio lametino. Coinvolto anche un altro poliziotto, Vladimiro Pititto, in forza alla questura di Vibo Valencia, perché avrebbe rivelato a uomini vicini alla cosca indagini coperte dal segreto. A fare da tramite, tra il clan e gli apparati investigativi, l'avvocato dei Mancuso Antonio Galanti, capace di intessere amicizie e in grado di far riconoscere in anticipo i dettagli delle indagini a carico dei suoi assistiti e di adoperarsi per screditare i magistrati che aprivano inchieste a loro carico. A giudizio del GIP, l'avvocato Galanti avrebbe travalicato i suoi doveri tanto da diventare intrinseco all'associazione ndranghetista e per questo è finito in carcere con l'accusa di associazione mafiosa. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Renzi, il giorno della fiducia alla Camera, dopo l'ok del Senato, il piano sulle tasse sul lavoro, un taglio tra 8 e 10 miliardi entro 12 mesi, dice il responsabile economico del PD a Radio 24. Tanto sono ancora molto pesanti i dati sul commercio al dettaglio, in dicembre il calo delle vendite è stato del 2,6%. E in difficoltà economica, preoccupato per i lavori davanti al suo bar che avrebbero tolto visibilità ai clienti, si dà fuoco un uomo a Monza. L'ex capo della squadra mobile di Vibo Valencia e il suo vice arrestati su ordine della procura di Catanzaro. L'accusa davano informazioni sulle indagini alle cosche. E una notizia di sport battuta poco dalle agenzie riguarda la Juventus, alla quale per i due striscioni dei quali vi abbiamo parlato ieri, quelli che insultavano la memoria della tragedia di Superga del 49 quando si schiantò l'aereo con il grande Torino, solo un'ammenda di 25.000 euro. Alla Juventus. Il giudice sportivo ha deciso anche che il centrocampista della Fiorentina Borja Valero è stato squalificato per 4 giornate per una spinta anche all'arbitro. Saluto Massimo Vivoli, vicepresidente di Confesercenti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, con lei vogliamo parlare dei dati che avete presentato oggi, sono i dati tradizionali di SOS Impresa e che sono i dati che riguardano l'usura e il pizzo. Avete fatto un calcolo secondo il quale il giro d'affari sfiora i 100 miliardi di euro addirittura per quanto riguarda il giro del racket. Ci arriviamo subito, però visto che lei è vicepresidente di un'associazione di settore e molto interessata a questo, le voglio chiedere un commento su questi dati, sul commercio al dettaglio, che sono oggettivamente ancora pesantissimi, insomma, meno 2,6% in dicembre rispetto al dicembre dell'anno scorso e soprattutto meno 0,3% rispetto a novembre, quando dicembre è, come dire, il periodo di Natale, quindi in teoria è il periodo nel quale si spende un po' di più. Che cosa dice? Ma ormai è diventata un'emergenza nazionale, ecco, la flessione record che nelle vendite nel 2013, certificata dal terzo anno consecutivo, è il crollo della domanda interna, e chiediamo tra l'altro l'intervento immediato da parte del governo, che si è costituito e si sta costituendo proprio in questi giorni qui, perché nel 2013 hanno chiuso quasi 19.000 imprese nel settore del commercio. È diventato proprio un allarme sociale. Senta Vivoli, a proposito dell'allarme sociale, tra poco sentiremo anche il sindaco di Monza. Che effetto le ha fatto la storia di quest'uomo che ha deciso di darsi fuoco? A quanto pare non è in pericolo di vita, per fortuna. Naturalmente gli stavano montando delle barriere antirumore praticamente davanti al bar in quella zona, perché devono fare dei lavori, però dice che gli affari non andavano bene da prima. È un segnale di questo tipo, ha a che fare con tutto questo secondo lei? Per fortuna non è un pericolo di vita, ma c'è proprio disperazione attraverso le imprese e gli imprenditori, sono attraversati da una crisi profonda, c'è una forte preoccupazione di chiudere il negozio, di fallire, i fallimenti sono aumentati, le vendite non riprendono, c'è un fisco che sicuramente perseguita le imprese, ecco, tutte queste cose qui portano alla disperazione chi a un certo momento ha rischiato tutto nella vita per aprire un'attività e creare posti di lavoro per lui, per la famiglia e per i dipendenti che lavorano all'interno. Sicché c'è proprio questa forte disperazione, c'è questo forte allarme sociale che tra l'altro noi manifesteremo nei diversi incontri che abbiamo chiesto ai diversi ministri e lo stesso Presidente del Consiglio. Vivoli, tutto questo in realtà può sembrare lontano il discorso, in realtà ha molto a che fare soprattutto col tema dell'usura, perché un periodo di grande crisi, si stringe il credito, viene facile la tentazione di rivolgersi a quelli che i soldi te li possono dare, che ti possono fornire liquidità subito. Il fenomeno è in aumento? Sì, purtroppo c'è un problema che le banche non erogano il credito, ci sono una serie di regole, c'è un problema di difficoltà delle stesse banche, c'è una chiusura, proprio un credit crunch che mese dopo mese, dai dati che dà sia l'ABI e sia che abbiamo anche noi attraverso i nostri consorzi di garanzia sul territorio, non c'è più erogazione del credito, sicché è evidente che in un momento in cui i consumi sono a livello bassissimi e non c'è crescita, le banche non erogano, e il fenomeno dell'usura è aumentato rispetto ai dati dell'anno passato, è aumentato del 15%, però sappiamo benissimo che questo qui è un reato, per cui spesso da parte di chi subisce l'usura c'è molto vergogna a denunciare. Noi invitiamo tra l'altro a denunciare le imprese, gli imprenditori, perché effettivamente attraverso i fondi di garanzia che garantiscono chi è stato usurato, anche fondi antiusura, possono accedere a un credito e possono essere accompagnati attraverso le nostre associazioni. Questo è un appello che noi rivolgiamo a tutto il mondo delle imprese. La ringrazio, grazie a Massimo Vivoli, vicepresidente di Confesercenti, e per i commercianti, gli esercenti in ascolto che fossero finiti in questo tunnel, naturalmente avete sentito, per voi ci sono delle garanzie. Noi tra un attimo torneremo sulla politica e non solo, parleremo con Pietro Ichino, senatore di Scelta Civica, però prima stiamo tra la politica e la televisione, perché ieri c'è stata la prima puntata della fiction dedicata al maestro Manzi su Rai 1 e i talk show politici sono stati letteralmente stracciati. Manzi Alberto. E così lei sarebbe il nuovo maestro. Questo è un carcere, Manzi, non è un collegio. Aveva un sogno. Lei pensa davvero che possiamo fare qualcosa per lui? Io così non servo a niente. Non ho libri, penne, non posso fargli scrivere. Insegnare a comunicare. Mi sembra una magia. Nonostante ci fosse in ballo il voto di fiducia a Renzi in Senato, ieri sera ha stracciato tutti i talk show politici con quasi 6 milioni di spettatori e un 21% di share. Ma non era una partita di Champions o un film di Clooney. Si tratta racconta della storia del maestro Alberto Manzi, il mitico Alberto Manzi, quello del programma Non è mai troppo tardi, diventato un'icona della televisione italiana perché portò i quaderni e la lavagna nelle case di tutti gli italiani. È il 1960, ma l'Italia è ancora un paese diviso e chiuso nei suoi dialetti, con 4 milioni di analfabeti adulti che dalle campagne si trasferiscono nelle grandi fabbriche del nord. Per tutti è una rivoluzione, per chi non sa leggere, ma anche per chi semplicemente ha poca dimestichezza coi libri. Il maestro Manzi è un anticipatore, insegna nel riformatorio condividendo il rancio dei ragazzi e poi in TV straccia il copione che prevede una inquadratura fissa per improvvisare una vivacissima lezione con fogli e gessetti. Imparare non deve essere noioso. Manzi, ci sono ancora 2 milioni di analfabeti. E noi li porteremo alla licenza elementare. L'insegnante della classe più grande di sempre. Cari amici, buonasera. Io sarò il vostro maestro. Comincia così un'esperienza unica che verrà copiata da altri 72 paesi e seguita in Italia nei bar, nei circoli e nelle sale parrocchiali. In 8 anni 1,5 milioni di persone impara a leggere e a scrivere e da allora non fu mai più troppo tardi. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Pietro Ichino, senatore di Scelta Civica, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. La convince questo Giuliano Poletti, ministro del lavoro? Se ne possono dare letture diverse. Una lettura è quella della rinuncia al Jobs Act. Lui non se n'è occupato fin qui, non è la persona che può fare di un piano del lavoro incisivo la propria bandiera e il proprio impegno nell'immediato. E allora, se questa fosse la lettura corrispondente agli intendimenti reali, il mio giudizio sarebbe nettamente negativo. L'altra è una lettura molto politica, sì. E che invece di fronte alla quale invece da politico di complemento, forse più tecnico che politico, avrei invece sarei disponibile a considerarla e tanto di cappello se risultasse la scelta giusta. Ed è l'idea di tranquillizzare la sinistra del PD e la sinistra del movimento sindacale con una persona di tutta fiducia, nel senso che è persona che viene dal mondo della sinistra, che non è mai stato visto come un pericoloso attentatore. Cioè, lei dice, mi scusi se concludo per lei, Chino, li confonde e poi in realtà gli piazza una riforma del lavoro. Costituisce la garanzia di un fatto che è importante e che deve essere alla base della riforma, e cioè che la riforma non porterà a un peggioramento, non porterà a misure che segnino un arretramento del benessere dei lavoratori. E però all'ombra, diciamo così, o sotto il riparo di questa garanzia, le cose che contano si fanno. Allora, se questo fosse il disegno, io sarei ovviamente disponibilissimo a dare una mano anche nella forma proprio puramente e semplicemente del peon che collabora con il governo e che mette a disposizione la sua piccola competenza, ma penso che effettivamente in una situazione di grande tensione nella quale su questi temi abbiamo sperimentato tanti blocchi politici, forse è la scelta giusta. Forse la scelta è questa. Allora, professor Ichino, abbiamo veramente 30 secondi. Che effetto le ha fatto? Ieri nel discorso di Renzi di lavoro praticamente non si è parlato, o quasi. No, il Jobs Act è stato totalmente obliterato in questo discorso, ma è stata obliterata anche la politica estera, che non è poco. E l'impressione è che Renzi segni un cambiamento di epoca nella nostra politica. Lui non parlava ai senatori, parlava direttamente alla casalinga di Voghera, al grande elettorato, ma non quello politicizzato, ai decine di milioni di persone che di politica non sanno niente e quindi non ha semplicemente pretermesso tutto quanto è stato l'oggetto fino a poche ore prima delle trattative relative al programma del governo, perché parlarne avrebbe significato usare un linguaggio che per questa grande platea sarebbe stato totalmente incomprensibile. Questo crea un problema, perché però invece fatti programmatici ci sono, fino a poche ore prima ci siamo riuniti per stilare questo programma, lui ha parlato d'altro. Quindi non parlava ai senatori. Allora, professor Ichino, io la ringrazio, purtroppo abbiamo veramente poco tempo, io sono già in ritardo sulla borsa, magari poi ci torneremo quando capiremo qual è veramente la strategia, se vorrà tornare il nostro ospite, se la strategia è la prima o la seconda che ci ha detto. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Renzi, giorno della fiducia alla Camera dopo l'ok del Senato. Pesanti dati sul commercio al dettaglio in dicembre, calo delle vendite dello 0,3%. L'ex capo della squadra mobile di Vibo Valencia è arrestato. L'accusa dava informazioni sulle indagini alle cosche. Per un'agitazione sindacale rischia di saltare la prima della Manon Lescaut di Puccini, diretta dal maestro Muti all'Opera di Roma. È il momento della borsa. Borse in diretta. Isabella Tasso, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Borse negative oggi, ma in tutta Europa e tutte più o meno allineate. In calo di mezzo punto percentuale FTSE MIB, FTSE O'Share e anche appunto le altre piazze finanziarie europee, tranne Londra che cede qualcosa di più, meno 0,96%. Brevemente i motivi, Isabella. Sì, Simone, la seduta è sottotono, gli investitori sono in attesa di spunti dall'esterno, l'attesa in particolare per le previsioni della Commissione Europea sulla congiuntura della zona euro, che saranno diffusi a breve, per i dati statunitensi sulla fiducia e l'attività manifatturiera nel primo pomeriggio. Nessuna sorpresa invece dai dati sul PIL tedesco del 2013, cresciuto dello 0,4%, in linea con le attese. E tra l'altro dei dati europei ve ne parleremo in Europa 24, perché usciranno esattamente alle 14. Mi sembrano abbastanza in tono alcuni bancari, Isabella, oggi. Sì, sono in tono alcuni bancari, le azioni del comparto sono contrastate, si distingue la Popolare di Milano con un rialzo del 3%, sostenuta da ipotesi che siano in vista aggregazioni nel settore delle popolari, gli analisti di Equita alzano il rating a buy. Recuperano terreno fra i bancari anche le Monte dei Paschi di Siena, più 0,6%, in vista di novità sul riassetto azionario. Per il resto il comparto ha il moderato ribasso. Bene, anche Banco Popolare, 1,5%, Mediobanca più 0,98%, negativa CNH meno 1,71%, Unipolsai meno 1,19%, Generali meno 1,03%. Grazie Isabella Tasso, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E ora passiamo ad una storia che ha a che fare con la cronaca, ma anche con la situazione economica. Via, via, via, via! Oh. L'audio che state sentendo e che sentite arriva da Monza, dove un uomo, un ristoratore, oggi ha tentato di darsi fuoco, anzi si è dato fuoco e per fortuna è fuori pericolo. Qual è il punto? Il punto è che sono delle barriere antirumore piazzate sostanzialmente davanti al suo esercizio per dei lavori che devono essere effettuati, il tutto sommato ad una crisi economica che evidentemente non dà tregua. Ne parlavamo poco fa col vicepresidente di Confesercenti. Saluto Roberto Scanagatti, sindaco di Monza, buongiorno. Buongiorno. Allora, ci dice com'è la situazione innanzitutto, perché so che ci sono anche due agenti della Polizia Municipale che sono rimasti ustionati. In realtà sono rimasti ustionati due agenti della Polizia Stradale, quelli che sono intervenuti ieri per spegnere, diciamo, il fuoco. Per fortuna uno dei due è già stato dimesso, mentre l'altro è in condizioni un po' più serie, attualmente è ricoverato al reparto ustionati di Niguarda. Anche la persona che ha compiuto il gesto è già stato dimesso dall'ospedale. È già stato dimesso dall'ospedale, quindi completamente fuori pericolo. Sindaco, io voglio capire da lei come va a finire questa vicenda, perché ne parlavamo prima col vicepresidente di Confesercenti, no? Naturalmente questi gesti sono dei gesti estremi, come ovvio, che magari prendono spunto da una situazione contingente, ma che poi hanno una radice evidentemente nella crisi economica. Le chiederei però sulla situazione contingente, perché questo è il tema. La situazione contingente è presto detto, la riqualificazione di quella strada, tra l'altro una strada statale, non è di competenza dell'amministrazione comunale, ormai di fatto ormai quella è diventata una vera e propria superstrada, un'autostrada, e è del tutto evidente che alcune precauzioni devono essere prese. Per questo queste barriere, che non sono barriere antirumore, sono barriere antisfondamento, perché devono, come dire, garantire sul piano della sicurezza l'innesto di una strada urbana su questa arteria. Devo dire che questo è un progetto che ormai è in gestazione da 10 anni, e evidentemente il ristoratore, non lo so, forse non era al corrente esattamente di come sarebbe stata il progetto definitivo. Fatto sta che alcuni mesi fa, quando si è accorto che di fronte al suo esercizio ci sarebbero state queste barriere, effettivamente è incominciato. Sindaco, mi scusi, ma non avete previsto delle compensazioni per gli esercizi della zona? Certo, non solo abbiamo già previsto delle compensazioni, ma proprio in questo momento abbiamo messo a disposizione una somma anche significativa, circa 100.000 euro, a cui si aggiungono altri 100.000 euro di Regione Lombardia, proprio per venire incontro a coloro i quali hanno subito più di altri una situazione di crisi che purtroppo si è prodotta per parecchi anni. Però qui il tema è un altro, non si può pensare di poter parcheggiare un'auto su quella che poi a tutti gli effetti è una corsia d'innesto su una superstrada, quindi il tema è esattamente questo. Noi come comune, anche se non avevamo diretta competenza in questi ultimi mesi quando è sorta la protesta, abbiamo cercato anche di mediare, abbiamo anche cercato di trovare delle soluzioni che potessero in qualche modo venire incontro anche dal punto di vista logistico, ma devo dire ci siamo proprio trovati di fronte a un muro di gomma, ecco, non ha voluto sentire ragioni finché ieri c'è stato questo gesto estremo che per fortuna, devo dire, non si è tradotto in una vera e propria tragedia, però l'abbiamo davvero sfiorata, devo dire, soprattutto nei confronti dei due lavoratori della polizia che, come dire, sono anche uno dei due anche quello che è in più gravi condizioni. Grazie Roberto Scanagatti, sindaco di Monza. Le auguro buona giornata, buon lavoro. Noi adesso, prima di fermarci per la viabilità, vi voglio dare qualche aggiornamento in merito alla questione dell'Opera di Roma. Allora, ve ne abbiamo parlato nei titoli, entriamo un po' nei dettagli. Eravamo in attesa di collegarci con un sindacalista appunto dell'Opera di Roma per capire che cosa sta succedendo, ma non ci risponde, probabilmente sono ancora in riunione, perfettamente normale, torneremo a parlarne nelle prossime edizioni dei giornali radio, oppure domani in effetto giorno. Qual è il punto? Il punto è che c'è un'agitazione sindacale che rischia di far saltare giovedì la prima della Manon Lescaut diretta da Muti. Stanno uscendo adesso delle indicazioni. Che cosa è successo? È successo che a causa di questa agitazione salterà la prima. Il sindaco di Roma Ignazio Marino potrebbe ricorrere anche alla liquidazione del teatro. Questa la notizia che è circolata ieri, perché tutto questo metterebbe in pericolo il risanamento economico del Teatro dell'Opera. Da segnalare che stanno uscendo delle indicazioni dalla riunione sindacale in corso, nella quale di fatto lo sciopero al momento

sono dati importanti, sono quelli delle previsioni economiche di Bruxelles sull'Italia, riviste al ribasso per quanto riguarda il PIL, ma a ribasso anche per quanto riguarda il rapporto deficit-PIL, altro punto importante, ne parliamo tra poco. Intanto chiudiamo Effetto Giorno, un ringraziamento a Filippo Aureggi in regia, a Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. Ci risentiamo tra poco appunto con il giornale radio.